la neve è addormentata ed il cielo è una lacrima nella valle che respira. La mia anima è sospesa, sarà il silenzio, sarà questo magico vento d'estate, ma è impossibile non pensarti. Forse ci apparteniamo e non lo sappiamo, chissà questo amore germoglierà. Solo il tempo potrà dire se sei un sogno da abbracciare. E Candy non lo sa, ma sto pensando a lei. Sorride piano quando Candy mi sorride. Chiudo gli occhi per ascoltare lo sbadiglio dell'estate. Vorrei addormentarmi, vorrei risvegliarmi mentre in braccio un bellissimo bambino. Forse ci apparteniamo e non lo sappiamo, chissà questo amore germoglierà. Solo il tempo potrà dire se sei un sogno da abbracciare. Candy non lo sa, ma sto pensando a lei. Sarà il silenzio, sarà questo magico vento d'estate, ma è impossibile non pensarti. Forse ci apparteniamo e non lo sappiamo, chissà questo amore germoglierà.